denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be. Mi auguro grand, che nessuno si faccia una risata nel guardarmi interpretare Marilyn, che non sono sulla esattamente nostra pagina Facebook, uguale, Deborah. Ecco, esatto, ma guarda, esatto, c'è un motivo. Sì, e salutiamo subito Andrea da Modena, che senza saperlo in realtà ci ha dato l'imbeccata per aprire la trasmissione di stamattina. Perché proprio da lì volevamo partire, cioè io avevo pensato, per così, ma anche per farti un dono, di prenderti un diamante. Sì, poi guarda, dici da tre mesi, poi però questa mattina ho letto Nicola Borzi, che i nostri ascoltatori Due di denari conoscono. È un bel sassolino nella scarpa che ha Nicola. È un sassolino pregiato, direi un diamante nella scarpa, perché sulla pagina di Finanza, la prima pagina di quelle di Finanza, sul Sole 24 Ore, dice: l'antitrust multa per 15 milioni, esatto, di euro le banche, i broker, IDB e DPI, per appunto le modalità di offerta giudicate, esatto, ingannevoli e omissive per i diamanti. Poi dico per esteso i nomi delle società, perché nell'occasione in cui abbiamo fatto la trasmissione su questo argomento molto controverso non le avevo pronunciate correttamente, quindi delle concorrenti mi avevano subito richiamato all'ordine. Intermarket Diamond Business è una delle due società multate dall'antitrust, insieme a Diamond Private Investment e anche gli istituti di credito presso i quali appunto queste due aziende distribuivano. Esattamente. Allora, il tema è le modalità di collocamento di questi prodotti, prezzi fatti in casa loro, sostanzialmente poca consulenza, quindi questa è la motivazione per cui si sono viste comminare banche e aziende questa maxi multa da parte dell'autorità garantita del mercato. Ribadiamo, 15 milioni di euro equamente distribuite tra operatori. Ho deciso di soprassedere, magari una scatola di cioccolatini facciamo, ti porto una scatola di cioccolatini. Ti voglio anche dire, anche a beneficio degli ascoltatori, leggo sempre dall'aggiornamento che dà il Sole 24 Ore, che sono state incassate in qualche caso commissioni sino al 20% per il collocamento del prezzo pagato dai risparmiatori. Che adesso li hanno ancora in casa. Il problema grande qual è? Che non riescono a rivenderli, quindi un investimento che loro ritengono sicuro e soprattutto immediatamente liquidabile, in realtà vanno in banca, non si riesce a stabilire un prezzo per questa rivendita, ma soprattutto la banca molto spesso dice: no, non te lo posso comprare, ricomprare, perché non c'è un mercato e non saprei che cosa farmene. Quindi sono queste le ragioni per cui complessivamente questo sistema è stato multato. Però direi di rifarci una bella puntata. Ma guarda, ti stavo proponendo la stessa cosa, magari se tu fai chiarezza, chissà, il diamante potrei poi comprartelo. Però vediamo. Io ridico quello che ho detto l'altra volta. È un gesto che comunque apprezzo, ecco, che non è che sono di quelli che poi contestano: ma non lo posso rivendere in banca, io me lo tengo, e qua risolviamo tutti i problemi. Magari ti scrivo un sonetto, guarda, così non ci impegniamo, quello è trasparente. Esatto, tutto ciò ci porta ad introdurre però il tema vero di oggi, perché oggi a Roma, proprio in questi minuti, si sta celebrando la giornata mondiale del risparmio. È una manifestazione storica ed ogni anno è l'occasione per fare il punto della situazione sul rapporto fra risparmio ed italiani, certamente una questione molto dibattuta negli ultimi anni per tante motivazioni. Oggi abbiamo persino in corso i lavori di una commissione d'inchiesta sull'operato delle banche che sono fallite o sono state oggetto di risoluzione con le regole del bail-in, trascinando con sé anche migliaia di risparmiatori. Sta cambiando anche il rapporto degli italiani con il mondo del risparmio: hanno un po' più di fiducia rispetto agli anni passati, risparmiano meno a quanto pare, Mauro, perché sono ritornati a consumare un po' di più. Questa quindi sembrerebbe una buona notizia, però va anche detto che proprio da questa indagine si ricavano anche dei motivi di preoccupazione. Una demarcazione molto forte tra alcune zone del paese e altre, quindi ad esempio non solo la canonica demarcazione nord-sud, ma anche nord-ovest rispetto ad altre parti del paese, e poi appunto le difficoltà per le preoccupazioni per quello, certo, che potrebbe potrebbe essere il futuro di medio termine. Abbiamo avuto anche i dati oggi, proprio stamattina, sull'occupazione. La disoccupazione giovanile ha avuto di nuovo un sussulto verso l'alto. Insomma, diciamo che forse siamo un po' usciti dalla crisi, ma non tutti e non del tutto. Hai fatto bene a citare i giovani, perché nella modalità con cui esamineremo questa mattina tutti i temi che stanno uscendo da questa giornata, faremo un focus anche sui giovani e su quella che è la loro propensione al risparmio, la loro considerazione del risparmio e anche tutto il tema delle loro nozioni finanziarie. Allora potete intervenire in diretta, fra poco partiamo all'800 24 0024. Come abbiamo fatto ieri, anche oggi proponiamo un sondaggio, perché ci piace capire cosa ne pensate sugli argomenti. Allora, in cosa vi riconoscete di più guardando alle scelte della vostra famiglia? Propensione al risparmio o al consumo? Cosa vi fa dire, se lo ritenete, che la crisi è finalmente alle spalle, o ve lo farà dire se ancora la percepite? Riuscire a risparmiare un po' di più o riuscire a consumare un po' di più? L'abbiamo questa è posta la scelta in questa maniera stamattina. Votate su Twitter. Non pronunciare questo verbo, che troppo sarà delicato. No, finché non entriamo nella fase di par condicio possiamo ancora dirlo. Votate il nostro sondaggio. Intanto ieri abbiamo chiesto: datevi un voto, quanto vi sentite preparati sulle tematiche finanziarie. Allora, il 45% dei partecipanti ha risposto che si sentiva preparato in modo insufficiente, il 31% in modo sufficiente, il 19%, insomma uno su 5, buono, una buona preparazione. Poi c'è un 5% che si dà un ottimo, e qui verrebbe da dire: richiameremo le signore di ieri, Magda Bianco e Anna Maria Lusardi, esatto. Vi faremo interrogare da loro se proprio vi sentite così spavaldi. Benissimo, partiamo allora. Una monetina te, una te, una monetina pure te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire. Quanta fatica metterle da parte, metterle dentro il salvadanaio. Allora, per gli italiani non esiste più l'investimento ideale, il mattone, pur in risalita, non ha più l'appeal degli anni prima della crisi. Questo è uno dei tanti aspetti che mette in evidenza la ricerca Acri Ipsos, che ogni anno viene presentata in occasione della giornata mondiale del risparmio. Dal sondaggio in realtà emergono molte considerazioni, emerge anche, questo lo volevo sottolineare Mauro, perché ieri sul tema dell'ansia da conoscenza finanziaria ci siamo tornati a soffermare. È un tema che ha sollevato la Consob quando qualche settimana fa ha presentato il rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane. Pensare a questo tema genera ansia finanziaria. La ricerca Ipsos dice invece che c'è una riduzione dell'ansia di risparmiare rispetto all'inizio della crisi. Quindi sembrerebbe alle spalle la fase in cui abbiamo molto accumulato, abbiamo fatto le formichine, e l'abbiamo visto ad esempio nell'andamento dell'industria del risparmio gestito, che continuava a macinare record di raccolta, e preferivamo trattenere, esatto, presso di noi, perché del domani non v'è certezza, e quindi meglio essere prudenti. Forse questa fase di prudenza, peraltro da troppa prudenza poi diventa eccessiva e nociva, esatto, perché si traduce più che altro in sfiducia, sembra superata. Sentiamo cosa ha detto a questo proposito Andrea Alemanno, direttore ricerche reputazionali di Ipsos, che presentando la ricerca che viene presentata in queste ore a Roma l'ha anticipata a Focus Economia e microfoni di Sebastiano Barisoni. Cala la quota di italiani che affermano aver risparmiato, perché quest'anno, ancora più che nell'anno scorso, anzi decisamente di più, aumentano gli italiani che dichiarano di aver in qualche modo aumentato i propri consumi o, diciamo, ridotto la riduzione dei propri consumi. Quindi c'è stata una tensione al risparmio che ha riguardato chi era un pochino più in difficoltà, mentre chi è in qualche modo ne è già uscito da un pochino di tempo, ha davanti a sé una situazione un po' più rosea, ha deciso di decomprimere una parte di consumi che per tanto tempo sono stati probabilmente rimandati, e quindi c'è una tensione all'aumento di consumo un pochino in tutti gli ambiti. È scomparso un certo tipo di consumo un po' sprecone, un po' leggero. Se riparte il consumo, comunque riparte un consumo molto attento, e quindi il risparmio è molto legato alla capacità di spendere bene, non sprecare, spendere il giusto, in qualche modo fare le scelte che siano oculate, anche se non necessariamente siano volte a tagliare per forza il costo. Che poi può essere anche un consumo di lusso, non nulla toglie, però deve essere qualcosa che in qualche modo ha un valore che gli viene riconosciuto, non tanto per consumare, non tanto volto a sprecare, cioè se io consumo una cosa la consumo, non la metto via, non me la metto in casa, non la compro tanto per averla. insomma, questo diamante che mi vuoi comprare, vedi di pagare un prezzo corretto, il non fare lo sprecone, non fare il leggerone, spendi il giusto. Bravo. Spendo il giusto, seguirò sicuramente i tuoi consigli, quindi vedremo un po' quanto si potrà mettere, anche perché c'è anche il messaggio del Presidente della Repubblica nella giornata del risparmio, che dice appunto: il risparmio delle famiglie italiane, oltre a rappresentare un sicuro ancoraggio nella loro esistenza, costituisce un elemento di forza del nostro paese particolarmente apprezzabile a fronte di un cospicuo debito pubblico, in cui potremmo dire, appunto, rovesciando il solito binomio virtù private e vizi pubblici, nel senso del debito pubblico. Guarda, proprio a proposito di questo, stamattina Giuseppe Guzzetti, presidente dell'ACRI, l'associazione delle fondazioni delle casse di risparmio italiane, che è l'ente che organizza la giornata mondiale del risparmio, in un commento su Repubblica ricorda proprio con dettaglio le cifre del risparmio degli italiani. Al netto dei debiti e degli immobili, il patrimonio finanziario degli italiani è di 3.240 miliardi di euro a fronte di un indebitamento pubblico di 2.279 miliardi. Lo sappiamo che siamo dei grandi risparmiatori. Marco Lo Conte, finalmente, dopo che presente, tutti gli ascoltatori hanno potuto osservarti dalla diretta Facebook, riusciamo a salutarti e a presentarti. Buongiorno a tutti. Partiamo proprio da questa considerazione. Tu questo tema sei un grandissimo osservatore, un profondo conoscitore anche di tutte le questioni legate all'educazione finanziaria. Ieri ci tenevi compagnia con Magda Bianco e Anna Maria Lusardi dietro le quinte. Oggi com'è composto il risparmio degli italiani? Lo stock è sempre elevato, lo abbiamo detto, però spesso osserviamo anche come gli italiani siano propensi ad accumulare, a fare le formichine, ma a non rendere efficiente il risparmio. È ancora così, o alla luce anche di questi cambiamenti che l'indagine Ipsos ACRI evidenzia, sta cambiando anche questa modalità di allocare le risorse accantonate? Anche in questo senso ci sono dei piccoli segnali positivi in termini di, secondo il principio della diversificazione, che è un principio che deve guidare le nostre scelte proprio per ridurre rischi e massimizzare i rendimenti. Ossia, negli ultimi tempi abbiamo assistito a un minor interesse degli italiani nei confronti delle obbligazioni societarie, in particolare delle obbligazioni bancarie, che si sono ridotte fortunatamente, aggiungo, nel portafoglio degli italiani, anche perché le banche hanno avuto molti più vincoli a collocarle nelle tasche dei propri clienti. Cosa succedeva al cliente della banca, correntista bancario, per diversificare rispetto al conto corrente si proponeva l'obbligazione della banca stessa. Ecco, come diversificazione non era per niente efficace, fatto sta che per la banca rappresentava un modo per fare raccolta diciamo secondario, certo, in maniera un po' suggestiva. Questo è calato molto, complice anche le nuove indicazioni regolamentari che sono giunte da Bruxelles. E un altro tema, un'altra riduzione di portafoglio è del principe del salvadanaio degli italiani, il titolo di Stato, che è sceso di una decina di miliardi di stock per quanto riguarda il risparmio degli italiani, a beneficio invece dei fondi comuni di investimento, che in una fase in cui appunto i rendimenti delle obbligazioni societarie e statali danno meno appealing, poi possiamo anche discutere le tecnicalità, perché poi tutto è un po' relativo. Beh, insomma, il fondo comune di investimento offre molti vantaggi sia in termini di rendimento che, soprattutto, lo sottolineo, in termini di diversificazione, che infatti è fondamentale. Allora, abbiamo anche un altro ospite collegato telefonicamente, magari Mauro lo salutiamo subito. Abbiamo una bella carrellata di ospiti stamattina, ci fa molto piacere perché abbiamo diversi campi di osservazione. Buongiorno al professor Roberto Fini, presidente per l'Italia dell'Associazione Europea per l'Educazione Economica e anche docente di macroeconomia applicata all'Università di Verona, benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a voi. Allora, dicevamo, il suo campo di ricerca è l'area dei giovani, che ossessioniamo con la questione del non avrai mai la pensione, non avrai mai un lavoro stabile, ma le campagne di educazione finanziaria per loro, per introdurle al mondo del risparmio in maniera corretta, ce ne sono molte. Proviamo anche a fare un lavoro costruttivo con questi ragazzi, non solamente a denigrare il mondo che hanno di fronte. Professor Fini, lei che li conosce molto bene, perché oltre ad interrogarli all'università università li incontra per questi incontri. Poi lei è anche referente italiano per la famosa indagine PISA che abbiamo anche commentato ieri con Anna Maria Lusardi. Allora, ce lo racconta un po' questo spaccato dei giovani al mondo del risparmio oggi, come lo vedono? Se ne discute in famiglia? Qual è il suo punto di vista? Sì, io credo che la ricerca PISA in particolare, ma anche altre indagini, ci dicono tutto sommato che il risparmio non è estraneo ai giovani, è un elemento sul quale riflettono, discutono piuttosto frequentemente con i genitori, hanno un uso non disattento dei pochi redditi che gli provengono dalla paghetta o da qualche lavoro estivo. Teniamo conto che molti ragazzi hanno il problema della ricarica telefonica, di piccole spese da fare con gli amici, e insomma in linea di massima riescono abbastanza a ragionare sulla necessità del risparmio. C'è un 60% circa di giovani che dichiarano di risparmiare per comprare qualcosa che ritengono per loro utile. Non è poco, siamo diciamo all'interno della media dell'OCSE che è del 63%, noi siamo al 59%, quindi siamo più o meno nella stessa dimensione del problema. Questo credo sia un buon segnale. Come è un buon segnale il fatto che nell'indagine PISA sulla financial literacy del 2012, quella pubblicata da poco, l'Italia ha scalato qualche classifica. Dico che è un buon segnale perché probabilmente questo è dovuto anche a una maggiore attenzione delle istituzioni, non solo pubbliche, anche private, anche le associazioni bancarie o altro, all'alfabetizzazione economico-finanziaria. Ancora c'è strada da fare, però le iniziative prese, che sono state censite anche di recente, sono più di 200 in tutta Italia, ci dicono che tutto sommato qualche passo in avanti è stato fatto. Professor Fini, spulciando tra i dati che emergono dalla ricerca sul risparmio degli italiani, emerge che le generazioni passate, torno quindi sul tema dei giovani, le generazioni passate sono percepite come più risparmiatrici rispetto all'indole al risparmio che avrebbero le generazioni più giovani. Lei osserva questa stessa dinamica o è solo una questione di disponibilità di reddito banalmente? Cioè, ovviamente chi è più anziano forse ha qualcosa di più da parte. Ma sono vere entrambe le cose. Probabilmente i giovani non hanno la propensione al risparmio degli adulti e degli anziani. Però, ripeto, non è affatto trascurabile la riflessione che fanno i giovani prima di decidere se e come spendere il proprio denaro. È chiaro che hanno minori capacità di riflettere su questi temi, hanno minore esperienza da questo punto di vista, non si può certo imputare loro una un'eccessiva disattenzione. Non direi che la questione vada presa con eccessivo pessimismo, siamo nei dati normali, credo. Nell'ultimo mese ho comprato auto nuova e casa, non proprio una propensione a risparmio, intanto ci racconta Leo da Firenze, noi la vogliamo vedere però in positivo, c'è progettualità in questa famiglia. Beh, no, ma infatti un'auto nuova e una casa sono beni, come si direbbe in contabilità, di utilità pluriennale, quindi certo. Uno di solito non compra una macchina per cambiarla dopo 2 mesi, e allora questo tipo di consumi dimostra una certa fiducia anche nel futuro. Sarebbe interessante sapere se poi questo ascoltatore ha scelto di pagare in quale modo, cioè non lo so, sì, adesso l'acquisto dell'auto a volte è un acquisto che passa attraverso questi noleggi di lungo termine, esatto. Quindi non ci sono modalità differenti, ma sull'indebitamento magari torniamo nella seconda parte, sì, della trasmissione. Sì, bravissimo, Bravo, bravo che l'hai ricordato. Intanto, a proposito della questione della fiducia che citavi Mauro, il tema della tutela del risparmio è ampiamente analizzata dalla ricerca Acri Ipsos. Marco Lo Conte, chiedo a te un commento su questo aspetto. La percezione della bontà della tutela del risparmio peggiora da parte dei detentori, appunto, dei vari strumenti su cui è possibile investire, come dar torto agli italiani. L'indagine evidenzia come il 66% degli italiani ritenga che gli strumenti siano inadeguati per tutelare i loro sottoscrittori, e questo è un dato allarmante. La fiducia è veramente molto bassa nel sistema finanziario, nell'industria, nei presidi, cioè nelle autorità di vigilanza. Questo è un dato che riflette sicuramente anche, diciamo, la negatività di vicende, di cronaca che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, gli ultimi anni, le banche venete, la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, le quattro banche andate in risoluzione. In realtà, se ci pensiamo, il valore economico di questi istituti di credito sul totale è veramente molto basso, ed sarebbe ingiustificata questa fiducia se non tenessimo in considerazione che in realtà la percezione è fondamentale. L'economia stessa è guidata dalle aspettative e dalla percezione che puoi avere del presente per strutturare il futuro. Si diceva progettualità poco fa, no? E quindi è fondamentale, come dire, dare delle risposte certe, immediate, nel momento in cui ci sono dei problemi, proprio per evitare che questi problemi si ingigantiscano e diventino un volano negativo sulle prese di posizione dei piccoli risparmiatori, dei grandi risparmiatori, ma anche delle imprese nelle prospettive future. Per evitare, appunto, che una certa forma, prima che di panico, di preoccupazione o l'ansia finanziaria di cui parlavamo anche ieri nel corso della puntata di ieri, diventi condizionante anche sulle scelte di medio periodo, l'acquisto ad esempio del nostro ascoltatore della casa o dell'auto. Per questo è tempestivo, è indispensabile intervenire in maniera tempestiva sulle sui crisi, problemi, non sui si può aspettare. Purtroppo si è preso troppo tempo in passato e si sono ingenerati questi effetti assolutamente deteriori. Grazie Marco, ma a questo punto vediamo allora chi per eccellenza guarda al futuro, e cioè i mercati finanziari, quindi Debora, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Tante considerazioni stanno arrivando dai nostri ascoltatori sul tema che affrontiamo questa mattina, non una delle consuete trasmissioni di servizio, ma diciamo un esame più generale rispetto alle considerazioni che stanno emergendo dalla giornata mondiale del risparmio in corso a Roma. Peraltro abbiamo anche il domandone su questo. È vero, avremo poi il domandone, come sempre vi chiameremo in causa, 800 24 00 24. La regia tenga pronta la sigla per rispondere quando al domandone, la spareremo così. Ma adesso vi daremo qualche informazione qua e là, dovrete riconoscere quella essenziale. State lì, state incollati alla radio. Ti do un aggiornamento sul sondaggio: risparmiate un po' di più, consumate un po' di più. Risparmiano un po' di più il 43% dei partecipanti al sondaggio, il 57% invece consumano un po' di più, e questo sembrerebbe un cambiamento in positivo. Peraltro, siccome appunto non c'è come di dare una notizia positiva per vederne subito una negativa, subito ci informano che rallenta, spiega l'Istat, la crescita dei prezzi. Quindi l'inflazione è cresciuta dell'1%, era stata l'1,1 a settembre. Voi direte che fa uno 0,1, ma in realtà di questi tempi anche queste lievissime oscillazioni sono importanti. Certo. Quindi oggi abbiamo due notizie un po', mi viene da dire, così così. Una è la disoccupazione giovanile che risale, l'altra è l'inflazione che rallenta, anche se di poco. Devo cambiare auto ma non riesco a risparmiare a sufficienza, ho un mutuo, ho un figlio all'università, lo stipendio è troppo basso, non vedo miglioramenti, anzi voi continuate a parlare di ricchi e borghesi, benestanti, di diamanti, la realtà è ben diversa per chi vive con stipendio fisso e famiglia. Effettivamente, Marco Lo Conte, so che questo è un tema che ti piace tanto, la questione delle percezioni, no? Poi del contesto che si ha attorno. Beh, la percezione è importante, lo sottolineavo prima, perché è da lì che ci si costruisce un'opinione. Chiaro, non è facile avere un'opinione composita con tutti i dati in congiunturali per poter avere un'opinione completa. È legittimo che il nostro ascoltatore abbia questa percezione e sicuramente non è casuale, e d'altronde la stessa ricerca evidenzia come la quota di persone che vivono ancora una condizione economica di difficoltà resta stabile negli ultimi anni al 15%, non ci sono miglioramenti per le fasce di reddito e di patrimonio più basse. E questo ci ricorda il fatto che la piramide sociale ed economica in Italia si è allungata, con le fasce più basse e più in difficoltà che non trovano giovamento e miglioramento negli ultimi tempi. Questo è un dato allarmante, perché significa che non funziona quello che le teorie economiche descrivevano come l'effetto gocciolamento, cioè se i ricchi stanno bene, a cascata il denaro arriva anche agli ceti meno abbienti. In realtà siamo passati dal colapasta alla scodella, forse esatto. È per quello che non... E quindi bisogna prendere in seria considerazione quanto ci dice l'ascoltatore. E sì che sono quasi 100 anni che si celebra la giornata mondiale del risparmio, quindi nel frattempo di educazione finanziaria dovrebbe essersene fatta, perché il primo anno, la prima giornata quando mondiale... Quando è stato? 1900, Deborah, lo sai? Non lo so, io ci vorrei fare il domandone per i nostri ascoltatori, che dici? Possiamo anche farlo? Ti sconfiffera l'idea? Mi sconfiffera l'idea, vediamo se lo... Come da tradizione, per ogni quizzettone che si rispetti c'è una sigla adeguata, e allora chiediamo ai nostri ascoltatori, e naturalmente pretendiamo la risposta all'800 24 00 24, quando è che si è celebrata, in che anno? Giornata mondiale del risparmio. Vogliamo sapere in che anno è stata celebrata la prima, è stato nel secolo scorso, vi do un aiutino, esatto. Anche se non potrei, signor notaio. Che generoso. E nessuno di noi era ancora nato. Adesso non esageriamo, perché sennò con la mia età già andiamo veramente all'alba, che Garibaldi però forse ma non c'era già più. Smettila. Salutiamo intanto la prossima ospite, Giovanna Paladino, economista e direttrice del Museo del Risparmio di Torino. Buongiorno e benvenuta, grazie. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. In occasione della Giornata Mondiale del Risparmio, il Museo del Risparmio di Torino ha organizzato addirittura una settimana, per così dire, di celebrazioni, no? Con tutta una serie di iniziative che peraltro quest'anno hanno allargato il loro orizzonte geografico. Lo scorso anno iniziative tutte concentrate in Italia, dottoressa Paladino, quest'anno invece siete andati anche un po' all'estero. Ci racconta che cosa avete predisposto a beneficio di chi vorrà seguire i vostri progetti? In realtà abbiamo predisposto una serie di eventi in 10 paesi, che sono i paesi dove l'Intesa San Paolo ha delle banche sussidiarie, dall'Egitto alla Russia. Tutti hanno accettato di intervenire in questa settimana, proponendo dei laboratori di educazione finanziaria ai bambini, attività a sostegno della gestione del denaro per le donne, per esempio in Egitto. Quindi abbiamo sicuramente allargato, sono 11 paesi in questo momento che stanno festeggiando questa settimana, e siamo partiti il 24 e coincidiamo oggi con la giornata appunto internazionale del risparmio. Hanno detto che noi non possiamo andare in Egitto o in Croazia o in Romania. In Italia che iniziativa abbiamo a portata di mano? Beh, l'abbiamo fatta, però abbiamo fatto l'attività appunto di approfondimento con i ragazzi sulla financial planning, quindi su quella che è la pianificazione. Abbiamo avuto degli eventi relativi alle donne, perché abbiamo presentato una ricerca relativamente alla gestione del denaro da parte delle donne, e tra le cose più curiose oggi inauguriamo una mostra di Salva Danai al Museo del Risparmio, perché nonostante il museo sia un laboratorio multimediale, abbiamo deciso di ospitare una donazione di Salva Danai, di 1500 Salva Danai, perché ha un senso, in quanto il salvadanaio, essendo uno strumento molto semplice, è una scatola con una fessura, in realtà ci consente di fare un'operazione molto complessa, che è legata a una scelta intertemporale fra consumare oggi e consumare domani. Quindi sembrava interessante. L'avevamo lanciata anche a Cuore Denari, la nostra precedente trasmissione, la vostra iniziativa, e peraltro avevamo invitato Mauro, i nostri ascoltatori, a mandarci la foto del loro salvadanaio in casa. Ne avevamo creato una video gallery veramente molto carina. Per i bambini, secondo me, ancora ha senso utilizzare questo strumento per insegnare loro come prima educazione finanziaria. Non so, che ne dice dottoressa Paladino? Sì, sì. salvadanaio può andare bene, ci possono essere anche salvadanai elettronici, adesso non è che quelli che abbiamo noi sono anche salvadanai molto belli dal punto di vista estetico, alcuni salvadanai meccanici dei primi dell'Ottocento americani, quindi la collezione ha un valore in sé anche dal punto di vista storico ed estetico, però un piccolo salvadanaio può essere un modo per far scegliere al bambino come realizzare un progetto e quindi in qualche maniera dargli questa libertà. Ora, talvolta devo dire che un'osservazione che mi piace condividere con voi è che spesso i risparmiatori italiani sono risparmiatori non intenzionali, cioè gli capita di risparmiare dopo che hanno acquistato i loro beni. Questo è un elemento che ci deve far riflettere, perché è vero che siamo un popolo di risparmiatori, ma la mancanza di intenzionalità fa sì che il risparmio sia poi lasciato sul conto corrente, sia lasciato languire, non sia utilizzato per un progetto. Quindi mi piacerebbe che nelle prossime rilevazioni ci fosse una maggiore percentuale di risparmiatori volontari, diciamo così, non accidentali. Deborah, scusami, ma c'è Cipriano che ci chiama da Frosinone e vuole dare la risposta al domandone. Sentiamo, Cipriano, l'anno in cui si è celebrata la prima giornata mondiale del risparmio? 1917. Mannaggia Cipriano, no, non è questa la data corretta. No, quella era la rivoluzione d'ottobre. Però bravo per però il tentativo. Vicino, esatto. Insomma, non vicinissimo, ma vicino. Ve lo do come ulteriore aiutino ai nostri ascoltatori. Peraltro, per dare un aiutino ulteriore, in realtà è stata decretata questa iniziativa in un anno per poi essere ufficialmente celebrato l'anno successivo, questo momento di raccoglimento del risparmio italiano. Poi vi spiegheremo tutto, ma insomma è un elemento in più che vi dà l'opportunità informatevi, di andare. Chiamateci 800240024 certo. E adesso, cara Deborah, cari ascoltatori, è il momento del traffico. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta Due di denari. Allora, abbiamo Alberto da Bergamo. Alberto, in che anno è stata celebrata la prima giornata mondiale del risparmio? Penso nel 1924. Sì, però io lo premierei lo stesso. Vabbè, ma non è proprio giusta. No, allora, la risposta non è questa, è giusta caro a metà, Alberto, è giusta a però metà. È quasi giusta. Non so, Deborah, fai tu la notaia. La notaia dice che che lo premiamo lo stesso, che mandiamo sicuramente un riconoscimento da parte della redazione di Due di Denari, però non è la risposta precisissima, quindi la notaia decreta così. Spiegheremo tutto. Esatto. Nel frattempo chiedo a Giovanna Paradino di rimanere con noi, direttrice e direttore del Museo del Risparmio di Torino. Ci ha raggiunto anche Fabio Picciolini, esperto finanziario, consumerista, storico. Picciolini, buongiorno. Buongiorno a voi. A commentare sempre i temi che stanno emergendo dalla giornata mondiale del risparmio che si celebra a Roma oggi nella TOT edizione, poi diremo la cifra corretta. Certo. Perché investire bene, risparmiare bene, gestire bene le finanze che entrano e ahimè escono anche, significa fare una corretta operazione di budgeting, non indebitarsi troppo. Fabio Picciolini conosce molto bene la questione dell'indebitamento delle famiglie italiane che per fortuna in questi anni non lo hanno fatto a tassi anglosassoni, però c'è stato un frangente in passato in cui i mutui erano diventati ingestibili quando sono esplosi i tassi interbancari e per qualche famiglia ci sono stati appunto dei mesi difficili. E, abbiamo interpellato anche Fabio Picciolini stamattina perché nei giorni scorsi sono stati diffusi i dati di tutti i reclami che arrivano al cosiddetto arbitro bancario finanziario, cioè un ambito molto problematico che è quello della cessione del quinto dello stipendio, quindi molti che hanno bisogno di indebitarsi per risolvere qualche problema finanziario, qualche problema di natura di emergenza finanziaria familiare, lo fa attraverso questa forma che ancora non è completamente trasparente. Picciolini, anche questi sarebbero temi da portare all'ordine del giorno della giornata mondiale del risparmio, che ne pensa? Sicuramente sì, parto dalla sua prima domanda, meno male che i dati Ipsos Acri sono ottimi, ma il primo risparmio è quello di gestire bene il bilancio familiare. Bisogna sempre partire dal presupposto che la famiglia è un'impresa, è un'azienda, per cui a fine anno, a fine mese, secondo come una persona organizza il proprio bilancio, deve lavorare in maniera tale che non ci siano delle perdite. Il concetto è esattamente lo stesso, perché poi è molto difficile riuscire a recuperare delle perdite. Per esperienza personale, nel senso di consulente, di consumerista, posso dire che se non si paga una rata di mutuo, al massimo se ne pagano due, alla terza si va in default, non si riesce mai a pagare tre rate continuativamente, perché gli stipendi sono quelli che sono, 1.300, 1.500, 1.700 per chi è fortunato, e togliere 500, 600, 700 euro ogni mese moltiplicato per tre diventa un problema estremamente, estremamente difficile. È vero anche quello che dice lei, per fortuna non siamo cresciuti come gli Stati Uniti o come il Nord Europa, comunque ormai siamo arrivati a un indebitamento di oltre il 60% medio per le famiglie, quindi vuol dire che qualcuna di queste famiglie qualche problema lo ha o lo potrebbe avere. Terza domanda che mi ha fatto, cessione del quinto. Guarda, cessione del quinto, il discorso è molto, teoricamente è molto semplice, purtroppo ci sono degli operatori che ancora pensano che la normativa della cessione del quinto non sia cambiata, che ancora sia possibile fare tutto quello che vogliono, per cui una persona estingue troppo presto o comunque non gli vengono rimborsate le spese che ha sostenuto, mentre ci sono delle leggi oggi molto precise che consentono da un lato la restituzione di quanto una persona ha pagato e non ha goduto. Secondo, c'è l'abito bancario finanziario che non sono dati ufficiali, dà ragione in stragrande maggioranza al consumatore, al cessionista come si chiama in questo, al cedente, chiedo scusa, come si chiama in questo caso. E quindi ci sono tutte le possibilità per farlo. Dopodiché va anche detto per correttezza che comunque le associazioni di categoria, dei professionisti, dei finanziatori hanno fatto dei codici deontologici che dovrebbero essere applicati prima di tutto dagli operatori, ma seconda cosa dovrebbero essere conosciuti molto, ma molto di più da parte dei consumatori. Certo, no, la interrompo perché questo tema è talmente delicato che merita una puntata a sé stante, ma ci porta a considerare questo, che molto spesso una persona che si indebita nei confronti del soggetto presso il quale contrae il debito si sente sempre in difficoltà e non conosce mai neanche la rosa delle tutele che ha, anche se è in una posizione teoricamente più debole, no Mauro? Quindi sì, questo è un tema molto rilevante. E questo me. Dell'indebitamento mi viene da chiosare, è anche importante in una fase in cui abbiamo ad esempio l'anticipo pensionistico, che adesso con il DDL di bilancio tra l'altro avrà ulteriori cambiamenti, in particolare per le donne. Tu che l'hai letto tutto? L'ho cioè letto, dentro, l'ho parte. Letto, lo devo hanno ancora fatto leggere gli accordi tutto con nei l'Abia dettagli. E l'Ania? No, non e c'è l'Ania. Quella parte lì, come sai, è ancora in corso, però già si parla di dare delle facilitazioni per le donne, ne parleremo in un'altra puntata. Volentieri. Ma restando alla questione del debito, ad esempio per l'anticipo pensionistico è importante considerare che è un prestito e quindi se uno già ha ottenuto altri prestiti per altre spese, e tutto il suo monte quello di esposizione danno, certo, deve essere considerato, e se gli stipendi non sono capienti o le entrate di famiglia non sono sufficientemente capienti, la cosa può diventare complicata. Scusami, vi fermo perché c'è Giulio da Roma che ci ha chiamato per il domandone. Giulio, buongiorno, la risposta? Buongiorno, 1925. Eccolo là, visto che... Perché nel 24 è stata istituita a Milano nella sede storica della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde in occasione di un convegno internazionale, appunto la Giornata Mondiale del Risparmio, e poi è stata celebrata nell'ottobre dell'anno successivo. La ricorrenza fu annunciata da un manifesto realizzato dai più importanti nomi della cartellonistica italiana del primo Novecento. Tutte notizie che ho letto, peraltro, dalle informazioni che mi ha dato il Museo Nazionale del Risparmio. Ma quante ne sai, Deborah? Dottoressa Paladino, ho letto bene le informazioni che sono circolate grazie a voi. Sì, ha letto bene, sono comunque informazioni di dominio pubblico. Esatto. Senta, una considerazione veloce, poi anche qua ci faremo una puntata a parte, su questo rapporto, sulla differenza di genere per quello che riguarda la gestione del denaro. Le donne che tipo di approccio hanno all'investimento, al mondo del risparmio? Le cose più interessanti emerse dalla vostra indagine? Beh, hanno un approccio molto precauzionale, quindi in realtà diciamo che anche le donne che risparmiano non investono, perché più o meno abbiamo visto che la percentuale di risparmiatrici è proporzionale alla percentuale dei risparmiatori che hanno risposto alla nostra indagine, però la percentuale di donne che investono è molto bassa, solo il 46%, e il 54% delle donne che non investono i propri risparmi li tengono liquidi sul conto corrente. Quindi questo è un po', diciamo così, preoccupante. Se andiamo poi a vedere cosa fa il 46% che investe, vediamo che concentra le proprie scelte su attività finanziarie con un livello di rischio abbastanza contenuto, che di per sé non è niente di male, ma che se guardiamo nella, come informazione nel lungo termine è un dato un po' preoccupante, perché ovviamente se rischiano poco avranno rendimenti più bassi, quindi il risparmio renderà di meno fondamentalmente. Certo. E poiché le donne, come sanno tutti, vivono più a lungo degli uomini, hanno stipendi abbastanza, diciamo così, contenuti e comunque più bassi di quelli poi degli uomini. E periodi contributivi frammentati per la maternità. Quindi alla fine si ritrovano ad essere più facilmente sull'orlo della povertà nel momento in cui saranno anziane, e quindi avranno più difficoltà in qualche maniera a trovare altre fonti di sostentamento. Grazie. Quindi questa è la nostra preoccupazione. Grazie, grazie. Grazie. Allora, Deborah, ringraziamo tutti i nostri ospiti. Marco Lo Conte, che è stato con noi grazie questa mattina. Grazie a voi. Ringraziamo Fabio Picciolini. Ricordiamo la rubrica di Marco Lo Conte su Plus 24, Soldi sì. in testa, me la ricordo male. Te la ricordi benissimo. Infatti, da cui è nato anche poi Risparmiatore Maleducato, che è il suo il libro volume, su questi appunto, argomenti. Di Marco. Esatto. Ringraziamo Fabio Picciolini, che salutiamo. Ringraziamo Giovanna Palladino. Esatto. Naturalmente tutto ringraziamo anche tutto lo esatto. staff, Paolo Corleoni alla regia insieme a Giulia Lauricella e Marco Lombardo come assistenti impagabili. Io invece saluto Stefano Elli, che è il terzo chapter 11, non riesco a mettervi insieme tutti e tre, ma io lo saluto e prima o poi ci riuscirò a farvi cantare in diretta. Bene, buona giornata. A domani. Ciao.